si può fare di Laura Bettini e con Carlo Gabardini. Una buona giornata e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio 24 e di Si può fare. Un buongiorno anche a te, Carlo. Buongiorno Laura e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Come vanno le cose? Tutto a posto? Una buona settimana? Ma sì, vanno bene. Adesso ci stiamo un po' assestando in questa fase 2, 2 e mezzo, 3 meno un quarto, 3,10, non si sa con precisione ancora come chiamarla. Non so nemmeno se a un certo punto arriverà una comunicazione ufficiale di in che numero di fase siamo, però insomma stiamo cercando questa lenta riapertura e stiamo cercando di capire come proseguirà la nostra vita. Senti, qualche prima volta post quarantena, che cosa hai fatto di nuovo che non facevi da tempo? Io ne ho una classica femminile. Sono andata dall'estetista. Quindi, non so tu, barbiere? Giusto, voglio sentire. Ma intanto diciamo questa cosa che vi raccontiamo alcune nostre prime volte perché vorremmo che voi ci raccontaste le vostre prime volte. È tutto nuovo, è in questo nuovo mondo nel quale stiamo entrando, dove tutte le cose che facevamo prima ora sembrano tutte delle prime volte. Quindi vi chiediamo di raccontarci le vostre prime volte. E io sono curioso di sapere la tua prima volta dall'estetista, cioè prima volta nel nuovo corso. La prima volta del nuovo corso? Magari no. Vabbè, no, la prima volta del nuovo corso è ovviamente la novità consiste nella mascherina, questo me l'aspettavo, ma nella bardatura da marziano di lei, perché comunque ovviamente sta ancora più vicina di quanto non stia un parrucchiere, no? Quindi doppia certo. Maschera sotto, schermo di plastica davanti, tutto inguainato, guanti eccetera eccetera, e ho detto ma come fai a resistere? Ho dovuto mettere più tempo tra un cliente e l'altro per poter uscire fuori e prendere un po' d'aria, che mi sembra ovvio e comprensibile. Ah, certo. Insomma, perché altrimenti non resisto una sì, mattina e che così. Tra l'altro spiega bene e in un'unica frase i problemi economici che tutto questo porta, perché se per un cliente invece che X tempo hai bisogno di X tempo più 10 minuti ogni volta, è molto chiaro a chiunque che si riusciranno a processare meno clienti al giorno. Con l'aumento delle spese, no? Con l'aumento delle spese. Io trovo molto interessante questa cosa delle prime volte, perché sottolinea quanto siamo tutti sulla stessa barca, perché spesso ci si trova di fronte a delle persone che anche loro non sanno esattamente come fare. Non è che siamo noi che non sappiamo, noi diciamo che clienti, un po' tutti, quindi ci si mette d'accordo strada facendo, e questo mi sembra interessante e fertile anche. Io come prima volta, molto banalmente, sono andato a prendere un gelato, ho chiesto due coppette, mi hanno riempito delle coppette che mi sembravano un po' più profonde del solito e un po' diverse, sopra ci hanno messo un tappo e mi hanno chiesto 11,62 euro, e io ho detto alla faccia, che cosa è successo? E loro mi hanno detto guardi, non possiamo più vendere gelato da sport, possiamo vendere solamente non possiamo vendere la coppetta, possiamo vendere del gelato da sport come se lei se lo portasse a casa, e quindi siamo costretti a pesarlo. Insomma, il conto è quello, io ho pagato, ho ringraziato e sono uscito con la mia coppetta su per cara. Ha detto ce ne compreremo meno spesso, buono ma poco. Esattamente. Va bene, 800. Mi dia la scatola da mezzo chilo, esatto. E ci mangiamo in otto. Bravo, esatto. Almeno se devo spendere spendo bene. 800 24 00 24 per le vostre prime volte, ma anche oggi, no Carlo, per il quiz, perché oggi è giornata di quiz. Certo che sì. E si portano a casa ancora dei libri per almeno questo periodo, continuiamo così, poi ci assesteremo, vedremo anche coi musei come si può fare, ma soprattutto ci vuole la riapertura, visto che noi parliamo a tutta Italia, ci vuole la riapertura dei confini delle regioni, che sembra ormai assodato, il 3, no? Saranno riaperte, ma insomma così magari si dice. Però vediamo, anche se uno se la sente poi di uscire per venire in Lombardia a visitare un museo. Per adesso regaliamo ancora, esatto, libri. E poi le vostre prime volte sempre agli stessi numeri. Esatto, numero 800 24 00 24 per le telefonate, 349 238 6666 per quel che riguarda invece SMS e WhatsApp. Tua buona notizia della settimana, Carlo, cosa hai pensato? Allora Laura, ti confesso che speravo di trovare un modo per ribaltare la terribile notizia dell'ennesimo caso di violenza su un cittadino afroamericano da parte della polizia statunitense. Ma devo dire che nemmeno l'accusa di omicidio di terzo grado e l'arresto del poliziotto che col ginocchio ha soffocato George Floyd mentre urlava "non riesco a respirare, sto morendo, non mi uccida" mi solleva. Le proteste da Minneapolis stanno contagiando il resto degli Stati Uniti, il presidente Trump ovviamente getta benzina sul fuoco minacciando via Twitter sparatorie come un gangster. E quindi ho cercato buone notizie da noi e devo dire che mi ha colpito una certa diffusa generosità in questa fase 2 di cauta riapertura, come dicevamo prima. Abbiamo letto di cappuccini pagati 100 euro per solidarietà. C'è un signore inglese con una storia bellissima che in un bar di Umbertide in provincia di Perugia ha pagato un caffè con 500 euro, lasciando il resto come mancia e dicendo: "È un contributo inviatomi dal mio paese. In questo momento serve più a voi che dovete ripartire che non a me." Commozione ovviamente, e anche la commovente storia di Nick, questo motociclista austriaco che l'anno scorso ha mangiato in Italia in una trattoria e l'altro ieri ha spedito alla proprietaria 50 euro di mancia perché, scrive nella cartolina allegata alla banconota, "mi sono reso conto che l'estate scorsa lasciai solo pochi euro di mancia e ora col Covid immagino siate in difficoltà." Sono belle storie che di solito io racconto per sottolineare che i cittadini nella quotidianità si mostrano diversi dai nostri politici, migliori delle nostre istituzioni. Invece la buona notizia è che la generosità di chi ha di più nei confronti di chi ha di meno forse è riuscita a contagiare anche la nostra cara Europa. Faccio un esempio che mi è sembrato lampante perché viene dalla Germania, perché viene dal presidente della CSU, Markus Söder, che è anche primo ministro della Baviera, che rispondendo a margine delle ultime decisioni sui forti aiuti economici europei ha detto: "Quando la Germania aiuta l'Italia e la Spagna, aiuta se stessa, non solo dal punto di vista economico, ma anche da quello politico e culturale, perché siamo tutti Europa." Ecco, giusto per ricordarci che nessuno ci guadagna se il proprio cugino o il vicino o il bar sotto casa o la nostra panetteria o il paese confinante stanno male, chiudono o soccombono. Non ci si salva da soli, anche perché onestamente quando sei solo, se anche fossi salvo, ma che diavolo fai dalla mattina alla sera? Sai Carlo che a proposito del non ci si salva da soli, abbiamo parlato molte volte della crisi del mondo dello spettacolo che è rimasta inascoltato sostanzialmente, sì. No? E volevo così dare conto, perché mi sembra importante, visto che abbiamo fatto tanti collegamenti con musicisti, con teatranti e così via, dare conto del fatto che oggi pomeriggio torneranno in piazza, ovviamente tornano le manifestazioni, sia pure con distanziamenti, no? Di un metro e mezzo tra manifestante e l'altro, quindi riempire le piazze in questo caso è più facile, però ecco, oggi pomeriggio ci sarà una manifestazione in 15 città da nord a sud, quindi da Brescia fino a Catania. Io lo sto leggendo nello specifico sul manifesto, ma insomma notizia la trovate sicuramente anche online, per protestare contro le misure che il governo non ha preso per chi lavora nel mondo dello spettacolo. Qui non stiamo parlando, no, di grandi artisti, ma di tutto le maestranze, rider, sarti, truccatori, registi, attori, musicisti, quindi non stiamo parlando di Elton John, ma stiamo parlando di quelli che fanno in modo che Elton John possa cantare davanti a un pubblico numeroso. Quindi oggi pomeriggio 15 città d'Italia. Molto giusto, sottolinei anche molto bene, perché come sappiamo magari gli artisti in qualche modo possono trovare altre forme, possono spostarsi su YouTube, possono scrivere un libro, ma se qualcuno si occupa proprio dello spettacolo dal vivo e sono persone fondamentali senza le quali non si andrebbe in scena, ecco, loro nel momento in cui addirittura qualcuno dice i teatri riapriranno l'anno prossimo, sono in fortissima difficoltà. Poi mi è piaciuto moltissimo, non so se è più da giornalista o più da militante, il fatto che dicessi: con le persone distanziate le piazze si riempono più facilmente. Mi è piaciuto molto. Però credo che sarà un colpo d'occhio molto diverso, no? Vedere questo tipo. Adesso, questa è la prima che vedremo le fotografie, ce n'è già stata una nel 22 di maggio. A Napoli, Piazza del Plebiscito, qui c'è una fotografia, ce n'è già stata una, ce ne saranno delle altre, via via che le persone avranno anche meno paura di scendere in piazza, no, con questa situazione. Sarà diverso, certo, il colpo d'occhio sarà diverso e sarà o sarà molto facile o molto difficile per la polizia, no, fare il famoso calcolo: quanti ce ne sono in questa piazza? Beh, forse più facile, forse più difficile. Cioè, le tabelline, finalmente le tabelline. Sì, sì, faremo il conto di qui ce n'erano 100 per 55. Boh, gioco è fatto. Esatto, perfetto, 5.500. Va bene, comunque noi siamo solidali. A chi mi dice: leggi il manifesto? Sì, leggo anche Libero, però se avete sentito la rassegna stampa, leggo anche il giornale, leggo anche il manifesto e il Sole 24 Ore più degli altri. Così almeno ne ho nominati a cascata. Siamo quasi vicini alla rassegna, sì, la rassegna di come vanno le strade, ecco, che siamo vicini alla viabilità. Esatto. Vorrei accennare anche al fatto che subito dopo parleremo di riconoscimento facciale e privacy dati, una questione molto di questo periodo, no? Per i tracciamenti, ma una questione di questo periodo proprio perché questo la condivisione di ciò che noi facciamo nella nostra vita, della nostra faccia nel caso del riconoscimento facciale o dei nostri spostamenti nel caso delle varie app, mi sembra una questione molto importante. Io sono sempre molto titubante, sarà che sono italiana e ci fidiamo poco di queste cose. Sono molto d'accordo con te e soprattutto è una questione che ci riguarda tutti, mentre fino a poco fa pensavamo che fosse una questione solamente degli sceneggiatori dei film di fantascienza. Ora invece ci riguarda veramente tutti, perché ci sono studi che dicono che ognuno di noi al giorno viene inquadrato da 300 telecamere, quindi se queste telecamere sanno anche nome e cognome, diciamo, possono tracciare la tua intera esistenza. Sì, dalle cose più banali a quelle più importanti. Ne parliamo subito dopo il traffico, a tra pochissimo. Si può fare. Gli anni 90, che anni, che ritmo. Una Vespa domenica è già, e una Vespa ci porterà fuori città. Quante cose sono cambiate dagli anni 90. Ad esempio, digitalizzare i processi aziendali oggi è più facile, con un software gestionale che funziona sempre e ovunque. In ufficio, in viaggio, in smart working, in cloud. Con Fluentis hai tutte le funzionalità di un ERP evoluto, completo di CRM e Business Analytics, per analizzare i tempi e ridurre i costi della tua attività. Non ci credi se non vedi? Vai su fluentis.com, scarica l'app e inizia subito la tua prova gratuita. Fluentis, la F che funziona. Si può fare. Cronache da un paese migliore. La questione del riconoscimento facciale, Carlo, per me è una questione assillante, ecco, non mi piace per niente. Seguo un po' queste, no, vicende ritrovati, soprattutto per quel che riguarda il contrasto, e questa settimana mi è capitato di leggere un articolo nel quale si parla di una maglietta capace di ingannare le camere che fanno questo riconoscimento facciale, no, questi software, e quindi mi sono molto incuriosita. A questo punto, no, vi ho proposto, ti ricorderai, questo argomento, mi pare di capire che sia piaciuto un po' a tutti. Allora vogliamo chiedere, tutti noi che prepariamo questo programma, e vogliamo chiedere alla nostra ospite, la professoressa Rita Cucchiara. Buongiorno. Buongiorno. Docente di sistemi di elaborazione Buongiorno. Dell'informatica dell'Università di Modena e Reggio Emilia, se davvero ci sono delle magliette, delle t-shirt in grado di ingannare il riconoscimento facciale. Sì, esistono degli esperimenti, degli studi che mostrano come le reti neurali artificiali, come il nostro cervello può essere imbrogliato, quindi ci sono questi studi che stanno nascendo e che hanno un senso, perché devono essere utilizzati per provare la robustezza degli algoritmi che stiamo sviluppando. Ok, quindi è anche un test per la capacità dell'algoritmo di... Sì, assolutamente. In questo momento non sono ancora dei prodotti nati per imbrogliare dei sistemi reali, ma sono soltanto esistono solo degli studi che sono stati utilizzati per capire quanto gli algoritmi sono robusti e quanto possono essere modificati. Infatti servono soltanto per alcune tecniche, non per tutte. Ma è giusto così. Quindi, perché se studiamo dei modelli intelligenti dobbiamo anche capire quanto poco intelligenti sono. Certo, quindi in realtà diciamo non è per indebolirli, ma è per irrobustire questi sistemi di sorveglianza. Io le vorrei chiedere, facendo un passo indietro, se in Italia c'è un problema di privacy e anche in Europa, soprattutto in questo periodo in cui per sconfiggere la pandemia ci viene chiesto di chiudere un occhio o di essere meno esigenti nei confronti della privacy. Le volevo chiedere che cosa sta succedendo alla nostra privacy e se effettivamente anche in Italia abbiamo tutte queste telecamere con il riconoscimento facciale. Allora sono due cose diverse. L'Italia in Europa ha fatto della privacy l'argomento più importante nel trattamento dei dati, io di questo sono assolutamente orgogliosa. Ed è giusto che noi proteggiamo i nostri dati e proteggiamo la nostra vita privata. In realtà però gli algoritmi devono essere studiati e non solo per riconoscere il volto, servono anche per riconoscere la bicicletta o un bambino che ti può cadere davanti a un'auto, quindi sono esattamente gli stessi algoritmi che devono essere studiati. E poi in questo momento il riconoscimento facciale ce l'abbiamo tutte le volte che accendiamo uno smartphone o accendiamo il nostro computer e a volte serve, una cosa diversa se lo si deve utilizzare per controllare la popolazione e questo in Europa è assolutamente vietato. Esatto, perché in Europa adesso leggevo in questi proprio insomma preparandomi a parlare con lei che si sta cercando in Europa, si sta creando una rete tra le forze di polizia che dispongono o disporranno di questi strumenti. Per quel che riguarda poi invece un uso diverso da quello della sicurezza delle forze di polizia, era stata chiesta addirittura una moratoria di 5 anni proprio per valutare i limiti di queste tecnologie o decidere come comportarsi e come fare. Ora la moratoria sembra slittata, però al momento la privacy è avanti rispetto all'uso della tecnologia. Sicuramente noi abbiamo già il GDPR, la legge europea che è in vigore, che ci impone di non registrare i dati per più di 24-48 ore, oppure di farlo soltanto in presenza di una richiesta della polizia, giustamente per delle indagini. Quindi già in Europa e in Italia siamo protetti su questo. Poi è ovvio che invece gli esperimenti vengono fatti un po' dappertutto per capire, ripeto, magari molto più per la nostra sicurezza personale che per il controllo. Pensate al fatto che magari sia giusto che un'auto veda se c'è un pedone davanti oppure un'altra operazione di questo tipo, senza dover riconoscere però se la nome persona e cognome, sono certo. Io o un altro. Certo, sono due cose diverse. Purtroppo diciamo tutto ciò che va a scalfire la privacy, ovviamente il modo per convincerci ad usarle è di dire questo serve per il vostro bene, serve per salvare dei bambini che altrimenti andrebbero sotto l'autobus. E sono contento di sentire dire no, non si possono tenere per più di 24 ore, ma comunque anche in Italia resta il sistema del riconoscimento facciale o da noi non è proprio ancora arrivato? Da noi non è utilizzato normalmente. Perché in nessun caso. Io a Malpensa per dire passo... Sì. Passo all'aeroporto e il riconoscimento del passaporto non lo fa più un essere umano, ma lo fa una macchina. Vabbè, e però dopodiché l'immagine non viene salvata e quindi la macchina l'ha fatto, così come la macchina ci ha aperto un cancello con un telecomando. non ci crea nessun tipo di problema questo. Il problema è se i dati sono mantenuti, sono controllati, sono mantenuti con la nostra identità, con il nostro comportamento. Certo. È una cosa assolutamente diversa. Se viene utilizzato come uno strumento per agevolarci la vita e senza nessun tipo di registrazione, perché no? Ma l'importante è che i nostri dati vengano mantenuti soltanto da chi ne ha il diritto, non vengono mai utilizzati per modificare la nostra vita o il nostro comportamento, come purtroppo avviene in altri stati. È chiarissimo, ma chi ci garantisce questo? Cosa facciamo quindi? Non usiamo le auto perché ci possono uccidere o ci possono mettere sotto? No, ce lo garantisce lo Stato, ce lo garantisce la legge europea. Ok, le devo chiedere una cosa che arriva dai nostri ascoltatori, perché noi siamo andati un po' veloci sulla questione della maglietta, invece è incuriosito. Come fa la maglietta a ingannare una macchina che guarda la faccia in realtà? Su che cosa va a incidere? In realtà l'argomento dal mio punto di vista scientifico è estremamente interessante, perché è tutto uno studio che si chiama di attacchi avversari alle reti neurali, perché si sta studiando perché i nostri campi percettivi ogni tanto si sbagliano, come nelle illusioni ottiche che il nostro occhio ha. Il motivo è perché noi vediamo non soltanto nel punto, ma abbiamo un campo recettivo molto più largo, e quindi se abbiamo, non voglio essere troppo tecnica, ma dei pattern luminosi o dei colori diversi attorno, una rete neurale, così come l'occhio, può essere imbrogliato. E quindi noi stiamo studiando come si possono rendere i sistemi, ma non solo di riconoscimento facciale, sto pensando anche in ambito industriale, in tantissimi in ambito medico, come si possono rendere gli algoritmi di riconoscimento più robusti anche imbrogliandoli con dati vicini. E le mascherine quanto influiscono? Le chiedo come ultima cosa. Sì? Le mascherine, cioè adesso quanto vi ostacolano, diciamo, nel proseguire questi studi per quel che riguarda ovviamente la vita fuori città, cioè fuori in strada? Diciamo, non sono collegate, nel senso che in questo momento gli algoritmi, quelli di cui parlavamo della maglietta, non fanno il riconoscimento facciale, fanno l'identificazione di dov'è la faccia soltanto, quindi non è che riconoscono se sono io, okay, se sei tu o un'altra persona. E la stessa cosa, diciamo, dov'è il volto, anche con le mascherine si vede perfettamente. Okay. Il riconoscimento facciale con le mascherine, alcuni studi ci sono, però non sono certamente come per noi, non facciamo fatica a riconoscere una persona solo dagli occhi. Sì, infatti non a caso manchiamo tanti saluti per strada in questo periodo. Esatto, è giusto che sia così. Meno male, insomma, che siamo fatti non solo di un occhio. Allora, grazie alla professoressa Rita Cucchiara. Abbiamo GR24, ci ritroviamo tra pochissimo. Carlo, stai lì, Ciao, siamo le radio italiane. Tutte insieme per costruire la più grande avventura del 2020. I love my radio. Aiutaci a scegliere la più bella tra le canzoni italiane che abbiamo suonato dal 1975 ad oggi. Ma come ricordarlo ora? Non sono una signora. 45 successi firmati da 45 grandi artisti. Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi. Alla fine dell'estate celebreremo insieme con un evento speciale la storia della radio e della musica italiana. Volerei da te da Milano fino ad Hong Kong. I love my radio. Tutte le radio unite per l'Italia. Vota la tua canzone preferita su ilovemyradio.it. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Let me take you down to Broadcast Beach, where the cigarettes are nice and cheap. Oh yeah, I want to hear you say it. Say it. Always wanted them to do it. Oh, yes. Of the age before the rhinestone band. Arrivano anche i vostri messaggi sulle prime volte in questa settimana. Di sicuro adesso non lo ritrovo, ma ho letto di un ascoltatore che ha detto che per la prima volta, diciamo, torna all'Acquario di Genova, perché si è comprati i biglietti e se la godrà, tra l'altro, da solo, se ben ricordo, senza famiglia. Insomma, ha deciso di fare questa sortita all'Acquario di Genova. Le vostre segnalazioni all'800 24 00 24, se volete raccontarcele, oppure al 349 238 6666 per SMS e WhatsApp, se preferite scrivercele. Carlo, sei sempre in linea, tutto bene? Certo che sì, stavo pensando che oggi per la prima volta andrò dal parrucchiere, quindi vediamo cosa succede. Succede che lo troverai come un marziano col casco e farà quello che deve fare, però tutto bardato. Possiamo prevedere che le chiacchiere riguarderanno sicuramente la pandemia. Ma io credo che ne saranno stufi marci di parlare di pandemia, quindi forse se, sì, se gli proponi un tema diverso, magari anche contento. Hai ragionissimo. Allora, invece adesso cambiamo questione, perché qui non è questione di prima volta, ma è questione di distribuire, di fare solidarietà con dei beni di alta qualità, pacchi di solidarietà con eccellenze del food italiano, e quanto stanno garantendo una serie di aziende italiane che hanno aderito che aderiscono al Consorzio Italia del Gusto e che hanno aderito all'iniziativa che si chiama Solidal Italy. Ne parliamo con Mario Ceruti, Chief Institutional Relation bla bla bla, una roba complicatissima, ma anche responsabile della sostenibilità per Lavazza. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Ma che cariche complicate che vi date, buongiorno. No? Sì, infatti. Io adesso chiederò. Va bene, lei è responsabile di un sacco di cose e tra l'altro è la persona competente per quel che riguarda questa iniziativa, nello specifico dell'azienda Lavazza, ma le aziende sono tante, no? Come dicevo, c'è tantissime. Sono più di 20, è un gruppo veramente impressionante di marchi, di brand, di aziende. Questo è una delle caratteristiche, direi, molto molto belle, no, di questo gruppo, proprio il mettere insieme delle eccellenze italiane, e questo che sono tra l'altro affiancate ed aiutate dai carabinieri, ho visto, quindi sì, c'è anche la scorta. Sì, esatto, ma questa è praticamente la seconda ondata di attività. Una prima si era svolta, diciamo, tra aprile e maggio, a cavallo di Pasqua, eccetera, ed era in Italia con distribuzione di circa 20.000 pacchi, soprattutto in alcune città del sud Italia. Poi stiamo iniziando, ma proprio in questi giorni, finalmente siamo riusciti a partire, e un'altra attività simile, dove appunto insieme alle aziende, naturalmente per i prodotti e tutte queste cose qua, e però insieme al Corpo dei Carabinieri facciamo questa distribuzione. Loro si occupano prevalentemente di individuare le persone, le famiglie che hanno necessità, che hanno piacere di ricevere questa cosa, e si occupano anche della distribuzione, quindi è un aiuto fondamentale, e questo verrà principalmente in Piemonte e Lombardia, e proprio in questi giorni sta partendo. E quindi queste persone ricevono un pacco con un assortimento di prodotti essenziali? Sì, c'è un assortimento di prodotti, ci sono, diciamo, appunto, tutti i prodotti di marca che vanno dall'olio al caffè, piuttosto che alle merendine, piuttosto che alla pasta, il tè, altri tonno, l'aceto, la polenta. Ecco, quindi se a questi prodotti associamo forse il marchio che ci viene più in testa, io ovviamente adesso non voglio dire... Non vogliamo suggerire, ma certo, però probabilmente queste sono le aziende che partecipano, quindi se uno pensa appunto al caffè, magari gli viene in mente chi partecipa piuttosto che altre aziende. Quindi la cosa molto carina è questa, tra l'altro... Prego. Trovo che sia molto interessante il fatto anche che siano prodotti di marca. Spesso in questo periodo, in realtà sempre, ci sono raccolte solidali di cibo nei supermercati, e tante volte abbiamo assistito a persone che magari per sé comprano determinate cose, poi devono comprare una cosa da mettere dentro nel cestino della solidarietà e comprano la pasta di marca La Pasta, di solito, diciamo, non i prodotti migliori vengono comprati per la solidarietà, quindi ci sembra una bella cosa. Le volevo chiedere anche un po' quanto fosse il valore di questo pacco. Dunque, il valore del singolo pacco, francamente, non ho proprio la un'idea precisa, perché oggettivamente non è mai stato questo, diciamo così, il riferimento, ecco, però penso che sia qualcosa nell'intorno di 30-40 euro, qualcosa del genere, ecco. Quindi comunque non è poco, perché alla fine il primo gruppo erano appunto 20.000 pacchi, era già un'operazione importante, e invece questa seconda che sta partendo adesso sono 3.000, però solo in queste regioni, poi vediamo di andare avanti. Tra l'altro adesso stiamo anche valutando, più che tutto da un punto di vista pratico logistico, se si riesce a fare, di fare un'attività simile in Inghilterra, e questo proprio per andare un po' in scia di quello che lei diceva adesso, e cioè portare prodotti di marca, prodotti di massima qualità, che in questo caso poi ovviamente rappresentano molto bene il Made in Italy, anche fuori, quindi una piccola, quasi simbolica, però importante attività di promozione del marchio italiano anche attraverso. Ma come mai proprio in Inghilterra, che ci hanno abbandonato in Europa? È vero, questo mi pare un commento giusto. Perché? Perché così vogliamo farci conoscere, insomma. Anche, sì, ma poi forse per farli cambiare idea. Potrebbe essere un'idea, però potrebbe essere sicuramente. No, diciamo che effettivamente forse queste cose qua, così come sono molto precompetitive per tutte le aziende, ed è giusto che sia così, devono anche rappresentare un po' l'eccellenza, quindi assolutamente devono essere cose di qualità, devono essere cose fatte bene, e devono anche poi un po' forse trascendere quello che potevano essere magari qualche screzio del passato, no? Quindi vabbè, giusto, portiamogli un segno di pace, ecco, una roba del genere, sì, portiamo un segno di pace. Grazie molte, allora buon lavoro, facciamogli vedere quello che si sono persi. Sì, esatto, esattamente. Lo pagherete di più. Allora, grazie molte Mario Ceruti per la vasta buona giornata e un buon caffè, dai, lo possiamo augurare, visto la mattina. Diamo il benvenuto a Roberta prima del traffico. Roberta dalla provincia di Roma vorrebbe dirci qual è stata la sua prima volta questa settimana, se non sbaglio. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. La prima cosa che ho fatto, essendo io anziana, riunire la famiglia all'aperto in un posto positivo, come può essere il ristorante, il nostro consueto ristorante, che ci ha accolto veramente con tanta benevolenza, distanziandoci, dando istruzioni giuste, quindi abbiamo passato la nostra prima riunione di famiglia in questo modo. Siamo grati di essere, come si può dire, insomma, tutti salvi per il momento. E questo è stato molto bello. Quanti eravate? Eravamo 6 persone a tavola, tra giovani e anziani. Allora, gli anziani chiaramente erano più grati degli altri. Eccoci qua. Bene, grazie, una bellissima idea, che è stato un bel incontro per voi, sicuramente un piacere anche per il vostro ristoratore che vi ha ritrovato e riavuto a tavola, e quindi buon proseguimento a tutti. Grazie Roberta, abbiamo la viabilità. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. It was 1989, my thoughts were short, my hair was long. Somewhere between a boy and man. Tra le tante questioni in sospeso che relative alla scuola e agli studenti, c'è quella degli studenti italiani all'estero. Sono sparsi un po' ovunque, hanno avuto difficoltà a rientrare, a volte non sono proprio rientrati, e comunque si sono trovati in difficoltà, specialmente quelli che più grandicelli, diciamo così, studiano all'università e fanno lavoretti per mantenersi. Abbiamo notato questa settimana che il governo tedesco sta offrendo del supporto economico agli studenti italiani che appunto magari hanno perso il lavoro ma si trovavano in questo periodo in Germania, avevano intenzione di finire il loro ciclo di studi in Germania, là dove si erano iscritti, che con la scelta che avevano fatto, insomma, abbandonare non era proprio nelle loro corde. Bene, vogliamo parlare di questo con Tobias Bargmann. Intanto gli do il buongiorno. Buongiorno. Che è il cofondatore di My German University, è un bel portale che potete trovare su internet, che aiuta appunto gli studenti che da tutto il mondo vogliono andare a studiare in Germania, anche perché in Germania ci sono delle belle condizioni per studiare, abbiamo appreso. Tra l'altro anche una questione di tasse che è molto interessante. Ma cominciamo dal lavoro che si fa appunto in Germania per aiutare gli studenti universitari a rimanere. Quali sono le facilitazioni, Tobias? Innanzitutto buongiorno da Amburgo, allora è infatti una bella notizia che il governo tedesco ha deciso di offrire un supporto economico agli studenti internazionali, tra cui anche migliaia di studenti italiani, e parliamo di un prestito senza interessi che ammonta fino a 650 euro al mese. Senza interessi, cioè questo prestito permette agli studenti, per esempio, che hanno perso il lavoro di mantenersi e di superare questa situazione difficile. Quindi è un prestito per vivere, non è per la scuola, diciamo, non è per l'università, per pagare delle rate universitarie, così, no, è proprio per vivere. Esatto, per i costi della vita quotidiana. Come diceva già, in Germania non ci sono le tasse universitarie in generale, quindi questi prestiti permettono a vivere e mantenersi. E valgono per... Scusi, sì, prego. Carlo? Mi dica. È scomparso, è caduto. Ah, ecco. Dunque, e quindi valgono per tutti gli studenti diciamo presenti, sono circa 9.200, leggevamo, quasi 10.000 esatto, studenti italiani in Germania, per tutte le età, diciamo, non è che sono riservati ai dottorandi o no? No, valgono tutti, proprio per tutti gli studenti italiani di tutti i livelli, cioè parliamo della laurea triennale, della laurea magistrale, anche dottorandi. Italiani e in generale stranieri, no? Perché comunque... Esatto, brava. E è un bello sforzo comunque, voglio dire, va bene che stiamo parlando di Germania, però è un bello sforzo. No, è proprio una bella notizia, perché la situazione per gli studenti stranieri è particolarmente grave, perché dipendono dai guadagni, dai loro lavori che hanno perso nelle ultime settimane, cioè molti lavorano in negozi, ristoranti e così via, che sono stati chiusi, cioè stanno senza lo stipendio e devono mantenersi altrettanto e devono tornare in Italia in questo caso. Secondo le vostre stime, quanti di questi studenti lavorano appunto? La maggior parte, meno della metà all'incirca? Allora, c'è una statistica che dice 3 su 4 hanno un lavoro, secondo le mie esperienze è ancora un tasso più alto. Quindi un bel numero. Esatto, sì. Carlo, sei di nuovo in collegamento, volevi chiedere qualcosa? Sì, chiedo scusa. No, in realtà sì, prima volevo chiedere, ma mi sembra che l'abbiate già risolto, se appunto trattandosi di prestiti e non di soldi regalati, immagino che ognuno poi li possa usare per quello che vuole, che non debba troppo giustificare per che cosa userà questi soldi. E poi la cosa che in realtà volevo chiedere era se questo è un modo per importare cervelli in Germania e se in realtà le persone vengono in Germania a studiare e poi restano a vivere lì una volta finiti gli studi, o se poi una volta studiato invece tendenzialmente tornano nel proprio paese d'origine o vanno in un altro paese. Allora, iniziamo con la prima domanda. È uno dei vari sostegni da parte del governo tedesco per attrarre cervelli dall'estero. La Germania ha anche una cultura molto ricca di borse di studio, per esempio del DAT, per sostenere lo scambio accademico con l'estero. E di solito, certo. Ho fatto la scuola tedesca, quindi conosco bene la didattica tedesca e la bellezza Bravo. Dell'insegnamento. Sì. E di solito stanno in Germania per per qualche anno e dopo tornano nel loro paese d'origine. E anche l'idea dello scambio, cioè non di mantenere i cervelli stranieri in Germania, ma creare una rete di scambio che sarà ancora più sostenibile. Io invece volevo chiedere, a partire da una prendendo spunto da un messaggio che abbiamo appena ricevuto, allora, questo è un prestito che per un mese, due mesi, qua c'è un termine, insomma, per il quale si può avere questo prestito e poi entro quando va restituito poi? Sì, allora, questo credito ha una durata fino alla prossima primavera, cioè è garantito per almeno 9 mesi. E quando vanno ripagati tra 18 mesi in su, cioè solo a lungo termine, per questo non ci sarà una pressione alta oppure in media di ripagare questi prestiti. E siccome gli italiani sono malfidenti, chiedono anche: ma come fa il governo tedesco a essere sicuro che gli saranno restituiti questi soldi? È una buona domanda. Sono dei contratti, i contratti vanno mantenuti, cioè, no, di solito funziona, sì, siamo tutti cittadini europei e di solito funziona, c'è un rapporto di fiducia fino a un certo punto, ma di solito gli studenti stranieri ripagano i prestiti. Cioè, l'esperienza è buona, ecco, diciamo, se guardiamo al passato l'esperienza è valida e di solito restituiscono. Va bene, esatto. E noi siamo felici. Senta, di questo. Approfittiamo del fatto che lei sta ad Amburgo e quindi per avere una panoramica di quello che sta succedendo in Germania. Qui da noi le scuole sono chiuse, in Germania come sta andando? Le università sono aperte, sono chiuse, come va? Allora, la maggior parte sta ancora chiusa. Cioè si svolgono le istruzioni oppure le lezioni in modalità virtuale, però alcune università hanno già riaperte le porte per svolgere gli esami, per esempio, e la maggior parte delle università programma di tornare alla normalità a partire dal semestre invernale, cioè da ottobre in poi. Settembre-ottobre, sì, dipende dall'università. Perfetto. E quando adesso vogliamo ripetere anche il vostro sito, che è My German University, quando è che ci si può iscrivere, diciamo? Qualcuno adesso deve pensare per questo settembre-ottobre o si parla già del 2021, perché ormai dado è tratto per questo periodo, per il prossimo inverno? È sempre possibile candidarsi per il semestre invernale, cioè per questo autunno, e sul nostro sito potranno trovare più di 1700 corsi di laurea magistrali in lingua inglese. Volevo chiedere, perché il tedesco non è né facile né diffusissimo in Italia, no? Immagino, quindi... Esatto, sì. No, c'è un'offerta molto ampia di corsi di laurea in lingua inglese, il 60% è a costo zero, cioè senza le tasse universitarie, e è proprio un'offerta accademica molto attraente, e sul nostro sito mygermanuniversity.com potranno trovare tutti questi corsi di laurea in lingua inglese. Va bene, allora io, Carlo, un'occhiatina la do, perché non si sa mai, magari ci trovo qualcosa l'anno prossimo, ti mollo qua e vado in Germania e vado a fare anch'io qualche corso di specializzazione, che male non fa, rinfresco un po' tutto e magari imparo il tedesco, che tu lo sai già, io no, e stai già un passo avanti, quindi... Giusto. Va bene, d'accordo. C'è un limite d'età, no? No, per niente. Bene, allora siamo felici così. Allora, grazie molte, buon lavoro a Tobias Bargmann, che ricordo, grazie. My German University, lui è uno dei cofondatori, ma è stato anche l'ex direttore dell'ufficio italiano del DAAD, lui ne ha parlato, che è il servizio tedesco per lo scambio accademico, che, come abbiamo sentito, in Germania è molto molto attento, molto quotato e fa molta attenzione allo scambio con l'estero e degli studenti. Buona giornata, buon proseguimento. Seguimento e buon... Com'è Amburgo il tempo? Una passeggiatina ci sta? Sì, no, oggi c'è del bel tempo, sono molto contento. Un po' come l'Italia, ma non c'è confronto, ovviamente. Beh, non è Roma, immagino, comunque... Vabbè. No, mai casa, ancora, no. Mai casa. Grazie molte, Bargmann. Grazie a voi. Stia bene, a presto. Grazie. Si può fare. Ciao, sono Barbara da Nuoro. I love my radio. Ciao, sono Anna da Cremona. I love my radio. Ciao, sono Rosaria da Napoli. I love my radio. Gli italiani amano la radio. La partecipazione del pubblico ai programmi della radio è aumentata di oltre il 27%. Il tempo speso in ascolto digitale della radio è aumentato del 61%. Ed è l'amica sempre vicina a 37 milioni di persone. Con dei numeri così, la radio è il grande amore degli italiani. Anche di chi investe in pubblicità. I love Italia. I love my radio. Si può fare. Cronache da un paese migliore. I know a spell that would make you well. Write about love, it could be in any tense, but it must make sense. I know a trick. Carlo, è arrivato un messaggio da un'ascoltatrice, Yuki, credo, se non sbaglio. Comunque ci dice che in Giappone, quindi il suo paese, hanno dato a tutti, compresi gli stranieri, 1000 euro, ma non ai giapponesi che sono all'estero come me. Vedi che ognuno poi si regola un po' per sé. Quindi 1000 euro agli stranieri, quindi vabbè, la vita in Giappone penso costi di più. 1000 euro a tutti gli stranieri, ma non ai giapponesi all'estero, e lei è rimasta intrappolata qua, evidentemente. Non so, ma Yuki, se ci vuole chiamare. Pensa in Italia. Ma? Pensa in Italia cosa sarebbe successo se avessero dato dei soldi solo agli stranieri. No, vabbè, non ne parliamo. Tanto non agli italiani all'estero. Allora, Yuki, se ci vuole chiamare, 824 0024 è il numero per raccontarci un po' la sua situazione, così magari capiamo meglio, e ci racconta anche un po' di come vanno le cose in Giappone. Perché insomma un canale privilegiato, come si dice di solito, ce l'ha sicuramente più di noi. E 824 0024 è anche il numero da comporre per chi vuole partecipare al quiz della settimana. E poi giusto, anche il numero perché noi, cosa? Esatto, ricordiamo la questione del quiz. Potete chiamarci, noi vi leggiamo una notizia con tre possibili finali, voi dovete indovinare qual è il finale giusto, è anche piuttosto semplice di solito, e vi portate a casa un libro. Esattamente, potete comunque chiamarci per dare il vostro contributo alla nostra ricerca della prima volta, cioè cosa avete fatto in settimana per la prima volta, qualcosa che non facevate da mesi. Abbiamo sentito appunto chi si vuole visitare l'acquario di Genova in solitaria, perché forse ha fatto il pieno con la famiglia, non ne poteva più, e chi invece ritrova la famiglia, come la nostra ascoltatrice da Roma che ha portato tutto il parentado al ristorante. Insomma, ognuno ha fatto la sua prima volta. Carlo la farà oggi pomeriggio, no? Con mi dicevi il parrucchiere. Verissimo. Il barbiere, e vedremo come ti conciano, Allora, invece, prima abbiamo detto di grandi lingue, no? Per andare a studiare in Germania uno pensa deve sapere il tedesco, magari il tedesco no, però almeno l'inglese sì. Ebbene, per andare là dove andremo adesso bisogna sapere l'occitano. Vorrei sapere quanti lo sanno degli ascoltatori, ma ci racconto un'altra lingua madre. Un'altra lingua madre, ma di nicchia, molto di nicchia, ma una lingua di nicchia. Giusto. Ines Cavalcanti, la direttrice artistica del premio Ostana, buongiorno. Buongiorno a tutti, allora vi porto lo saluto in lingua madre occitano. Ah, ecco. La lingua che Dante Alighieri ha parlato della Divina Commedia. Ha capito. Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei. Vi porto il saluto delle valli occitane e della lingua occitana. Una lingua che Dante Alighieri ha messo nella benissimo. Divina Commedia. Ecco, ma incredibile, sì. Ma si capiva benissimo. È una lingua neolatina, quindi tutte le lingue neolatine si assomigliano. Sembrava un catalano. Giusto. Che è comprensibile. Non so com'è. Certo. Certo, infatti l'occitano e il catalano sono chiamate lingue sorelle, perché sono delle lingue veramente similari. Hai capito, vedi però? Senta, ci dica si può fare in occitano. Espolfar. Perfetto. Espolfar. Ottimo accento. ottimo accento. Senta, allora parliamo un po' di questo premio. Quest'anno ovviamente in una formula diversa, non potete portare tutti là in questo paesino che si chiama Ostana, attualmente 85 abitanti in Valle del Po ai piedi del Monviso, non potete portarli, ma come potete fare con tutti i parlanti di queste lingue? Allora, il 5-6 di giugno, se voi volete sentire il suono di lingue diverse, suono anche di lingue che probabilmente non avete mai sentito, non so quanti di voi hanno sentito l'innu, per esempio, una lingua indigena del Canada, o quanti hanno sentito il Sami, oppure quanti hanno sentito il Chuvashio. Ecco, che se voi il 5-6 di giugno andate su www.premioostana.it, assisterete a due giornate di diretta web, 15 ore di diretta, tutte praticamente con le lingue originali. Il premio Ostana è un premio che nasce 11 anni fa appunto alle sorgenti del Monviso, che vuole portare l'attenzione, vuole focalizzare l'attenzione sulla biodiversità linguistica e sulla questione che ci sono tante lingue nel mondo che stanno morendo, e queste lingue però rappresentano un patrimonio per l'umanità, come noi difendiamo un monumento, come noi difendiamo la biodiversità dell'ambiente. È importante che difendiamo anche la biodiversità linguistica, perché sono popoli stanziali che vivono su dei territori, che quei territori riconoscono e attraverso la loro lingua madre trasmettono comunque delle cose che in un'altra lingua che non è la loro si perde. Quindi il premio questo, diciamo, a questa caratteristica. Quest'anno in genere si passavano tre giorni insieme in convivenzio, che è un'altra parola dell'epoca trobadorica, che vuol dire l'arte di vivere insieme in armonia. Voi pensate com'è attuale la parola convivenzio, che veniva usata nel 1200 dai trovatori. E quindi quest'anno lo facciamo online, e cosa facciamo? Abbiamo recuperato dia il tempo di dire una parola anche a noi. Ok, perfetto, scusate. Carlo, sentivo che volevi fare un... no? Che volevi intervenire forse? No, no, invece io ero assolutamente affascinato, perché mi sembra stupendo, ho una fascinazione anch'io per le lingue, ma poi immaginarsi, ricordiamo che secondo l'UNESCO le lingue parlate nel mondo sono 7000, quindi sì, se da un lato è comprensibile che ci si concentri su certe lingue per essere più comprensibile, per parlare a 7 miliardi di persone, dall'altro sono veramente pezzi di cultura che non ci si può permettere di perdere. Cioè, immaginatevi che cos'è una lingua, non importa da quante persone parlate, ma la complessità, l'immensità. Cioè, una lingua vuol dire che può descrivere tutto, è una cosa incredibile e stupenda. Allora, la domanda più stupida che lo volevo fare è se queste 15 ore di diretta su internet il 5 e il 6 giugno saranno sottotitolate, e poi sì, qual è la lingua ufficiale del festival? Allora, sono tutte sottotitolate in italiano, e la lingua ufficiale del festival è in Italia, perché noi viviamo in Italia, quindi ovviamente abbiamo tutto sottotitolato in italiano, un lavoro enorme, perché però aspetti, dunque ci saranno delle dirette web dove praticamente ci saranno delle interviste. Allora, queste interviste, se una persona che è in Italia, tipo Monica Longobardi, che all'università è di Ferrara, ha fatto la traduzione di un libro di Lucchetto, uno scrittore occitano, evidentemente l'intervista è in italiano. Se invece noi parliamo, certo, con Bob Holman, che è a New York e che quindi lui è un difensore delle lingue nel mondo, e ha fatto un film con più di 50 lingue che verrà trasmesso nella serata del 5 e del 6, adesso non ricordo, evidentemente con Bob Holman Valentina Musmeci dialogherà in inglese e ci sarà la traduzione simultanea in italiano. Quindi temevo in occitano. È perfetto, signora. E poi però voglio dire questo: noi abbiamo scritto alla rete degli scrittori che sono venuti ad Ostana e abbiamo chiesto di mandarci un contributo che definiamo Lettere da Ostana, di 1000 battute, dove loro ci spiegano come hanno vissuto questo momento di pandemia, perché comunque l'hanno vissuto tutti. Quindi, per esempio, è impressionante perché Leontiev, che è in Chuvashia, è una regione della Russia dove si parla questa lingua, il Chuvashio, lui si iscrive e sembra che sia qui da noi, perché lui dice: ma noi non possiamo uscire per andare fino nel nostro orto, porto che lì davanti a casa perché non ce lo permettono, e parla di cose che dici, ma allora qui è come se fosse in Italia, oppure ci sono delle persone come Corraine, che è un sardo, che pone dei quesiti dove dice, ma le generazioni, sono morti tanti anziani che erano la nostra trasmissione della memoria, e quindi tribuleremo ancora di più per salvare le nostre lingue. Oppure c'è Salvatore Tommasi della Grecia Salentina che dialoga con la sua lingua, lui è in casa e parla alla sua lingua e gli dice delle cose. Quindi è molto interessante sentire queste lettere da Ostana, perché fa vedere veramente, fa toccare veramente con mano la diversità linguistica nel mondo. E però dall'altra parte e la similitudine. Esatto, dall'altra parte, esatto, la vicinanza. Esatto. Pronto. Ci sembra assolutamente una grande occasione questa. Tra l'altro lei sottolinea un punto fondamentale, perché credo che sia la prima volta nel mondo che praticamente 7 miliardi di persone vivono in contemporanea lo stesso dramma, e quindi usare, diciamo, sfruttare bene il fatto di un dramma comune, però per poterlo raccontare in 7.000 lingue diverse, ci sembra assolutamente un'operazione straordinaria. E poi sa che cos'è che sarà molto interessante? Che da quello che dicono e da come si pongono e da come raccontano lì, senza tanti discorsi ideologici, si vede come la diversità linguistica è veramente importante, perché il modo in cui si pone la Sharupi che viene dal Messico, oppure il modo in cui si pone questa donna Inu che si chiama Josephine Bacon che viene dal Canada, oppure un basco come la Zumendi che viene dal Paese Basco, sono dei modi anche di porsi, di parlare, di ragionare, che sono molto diversi uno dall'altro, quindi si vede come la diversità linguistica è importante. Ed è anche bella. Signora, è stupendo. Quante lingue parla, signora? Com'è? Quante lingue conosce? Io parlo l'occitano, l'italiano, il francese, perché noi siamo qui in provincia di Cuneo, alla confluenza con la Francia, e poi perché l'Occitania francese è molto grande, capisco bene il catalano, parlo il dialetto piemontese, e non lo capisco Cheyenne. L'inglese, lo Cheyenne non lo capisco. Va bene, ringraziamo moltissimo. Una curiosità, sentivo che parlavate prima di Giappone. Sì. Allora, in Giappone la lingua occitana è molto e molto studiata, e c'è una insegnante dell'Università di Nagoya, Naoko Sano, che ha fatto con noi un libro in 4 lingue, Viaggio di una giapponese nelle valli occitane d'Italia. Ma tu guarda, è stupendo. Giapponesi stupendo. Arrivano ovunque. Benissimo. Allora, Ines Cavalcanti, noi le auguriamo ogni bene con il premio Ostana del 2020. Sarà diverso, ma sarà comunque bellissimo. Buon proseguimento, buona giornata. Grazie mille a voi per l'opportunità che ci avete dato. Grazie molte. Allora, abbiamo un concorrente per il quiz. Lui si chiama Giuseppe, chiama da Milano. Buongiorno. Buongiorno. Come va? Tutto bene? Grazie a Dio, siamo rinati a nuova vita. Siamo rinati a nuova vita e vediamo di portarci a casa anche un libricino da leggere al parco, finalmente, non più in casa. Dai. Vediamo. Allora, cosa propone il quiz? In diversi centri cinofili in tutto il mondo, dall'Inghilterra all'Iran, i ricercatori stanno cercando di addestrare i cani per svolgere un compito sorprendente. Quale? Risposta numero 1, per fiutare la presenza del Covid-19 nei pazienti infetti. Risposta numero 2, per sostituire gli umani nella consegna della posta, evitando così il contagio da contatto. Risposta numero 3, per realizzare dei Long Island a regola d'arte con tanto di ciliegina. Credo che la risposta, anche per il clima che si sta vivendo, è la numero 1. Se non ricordo male, credo di aver letto un articolo in questo senso. E cioè... Sentiamo il notaio. E lei ha letto bene, certo. Ricorda bene, insomma. Ha letto bene. Comunque è una notizia incredibile, i cani fiutano il Covid-19 più velocemente dei test, studi appunto in Inghilterra e in questo centro di addestramenti in Iran, quindi ci è sembrata una gran bella notizia. Sì, tra anche l'altro. Più invasiva del tampone. Anche più veloce. Più facile forse, non lo so, dipende da quanti cani e quali cani, ma se sono cani diffusi e facilmente addestrabili, sicuramente, e se non si contagiano, perché altrimenti poi poverini anche loro, insomma. Mi farei annusare da un cane perché sto tentando da tempo di fare questo test sierologico nella zona dove abito, non ci riesco. Sì, sarebbe interessante. Chissà se il comune di Milano ne ha qualcuno a disposizione da, no, da se, che può mettere in strada ad annusare un po' le persone. Magari sarebbe un'idea. Una bella idea. Grazie Giuseppe. Grazie a voi. Grazie. Buona giornata, buon proseguimento. Viabilità. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ed eccoci al momento della classifica delle migliori buone notizie della settimana. Eccoci qua al numero 5. Germogliati a Perugia dei semi sopravvissuti alla bomba atomica. Sono germogliati presso l'orto botanico dell'Università degli Studi di Perugia alcuni semi, 160 di 30 specie diverse, di Ibaku Yumoku, qui ci vorrebbe l'ascoltatrice di prima, gli alberi bombardati dall'atomica, sopravvissuti alle devastazioni di Hiroshima e Nagasaki, ovvero a un calore che a 2 chilometri dall'epicentro è stato quantificato pari a 40 volte di quello del Sole. La struttura dell'Ateneo, contattata da Antonio Brunori, segretario generale della sezione italiana del programma for the endorsement of forest certification, associazione internazionale che promuove la gestione sostenibile delle foreste, e da Tiziana Volta del Mondo Senza Guerre Senza Violenza, Biodiversità Non Violenta di Brescia, per la propagazione dei semi di alcuni Ibaku Yukumoku. Eccoli qua, questi 27 esemplari, quindi sono alla fine nati e dimostrano, insomma, come la natura può sopravvivere e rinascere. Al quarto posto nasce il portale Infotrans, in poche ore già 1100 accessi. Ci è sembrata veramente una straordinaria notizia, soprattutto in questi giorni, di questi tempi in cui Orban, il neodittatore ungherese, dopo che ha chiuso il Parlamento, la prima legge che ha fatto passare, il primo provvedimento, è stato che le persone trans non sono considerate tali ed è di fatto divieto a loro di cambiare sesso. Ecco, in un momento in cui appunto Orban decide questo tipo di reazione e di prima. Non abbiamo grande fortuna oggi con il collegamento con Carlo, vediamo se riusciamo a recuperarlo rapidamente, altrimenti andiamo avanti con la nostra classifica. Carlo stava leggendo del portale Infotrans che è entrato online e si sono collegati 1100 utenti unici, il primo portale istituzionale in Europa per le persone transgender. Al terzo posto abbiamo voluto invece mettere i più di 100.000 alberi piantati per compensare le emissioni di CO2 da parte del gestore elettrico E.ON. Siamo orgogliosi di festeggiare, hanno annunciato nel corso della settimana, che con la collaborazione dei nostri clienti dal 2011 contribuiamo al rimboschimento del verde italiano e siamo arrivati a ormai oltre 100.000 alberi piantati nei nostri boschi e in varie zone cittadine forestali di tutta Italia. Una vittoria per l'ambiente, un'azione concreta di sostenibilità per evitare l'emissione di CO2 in atmosfera, che è stata resa possibile dal contributo di ogni membro della nostra community. Dicono, saranno anche clienti. Carlo, sei tornato? Sì signori, è quindi il secondo posto, ok, l'ok del Senato alla giornata dei camici bianchi di cui abbiamo parlato diverse volte. C'è stato il via libera dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato per l'istituzione della giornata nazionale dei camici bianchi per onorare il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio, li vogliamo ricordare, di medici, infermieri, operatori e volontari in ambito sanitario, sociosanitario e socioassistenziale nel corso della pandemia del coronavirus. E in prima posizione festeggiamo, diciamo così, finalmente una ritrovata armonia in Unione Europea. Parliamo del Recovery Fund da 750 miliardi che potrebbe portarne all'Italia oltre 170, insomma. Stando quanto cos'è il Recovery Fund presentato dall'UE, come funzionerà, insomma, stando a quanto ha dichiarato durante la sessione plenaria il Recovery Fund della Presidente della Commissione von der Leyen, è più generoso rispetto a quello che era stato immaginato dal Presidente francese Macron e dalla Cancelliera tedesca Merkel. Si parla infatti di una dotazione che arriva a 750 miliardi che dovrebbero essere ripartiti 500 sotto forma di sovvenzioni, 250 sotto forma di prestiti. E ovviamente dobbiamo vedere poi dopo come vanno a finire le cose, ma l'armonia ritrovata, le intenzioni, l'unità, insomma, ci sembrava qualcosa da festeggiare in questa classifica. Ma non è finita. Ogni nome è un uomo ed ogni uomo è solo quello che scoprirai seguendo le distanze dentro sé. Quante deviazioni, quali direzioni, quali no. Non è finita perché? Perché c'è ancora qualcuno che è arrivato in cima a una classifica, un emozionante trionfo per la squadra azzurra, quattro i player azzurri che vincono i Euro 2020. C'è con noi Nicola Nicaldan Lillo, capitano, della nazionale italiana di eFootball. Buongiorno e complimenti. Buongiorno a tutti. Grazie. Allora, com'è andata questo trionfo? Insomma, finalmente possiamo festeggiare dello sport. Sì, è stato un onore rappresentare l'Italia in una manifestazione così importante per il mondo e-sport, e portarla in alto e vincere il titolo è stata una soddisfazione enorme, un grande orgoglio. Campioni d'Europa, dai, una bella soddisfazione. Buongiorno capitano, buongiorno. Siamo felicissimi, però dobbiamo spiegare ai nostri ascoltatori che cos'è, nel senso, abbiamo vinto gli europei di calcio, sì, europei di calcio su online, PlayStation, su come si dice? Sì, PlayStation, su PES. Il titolo di PES 2020. E come avviene questa cosa? Perché ho letto che voi siete stati selezionati, che non vi siete mai incontrati fra di voi, la nostra squadra è fatta da quattro persone che adesso ovviamente ricordiamo, e come avvengono questi tornei e come è avvenuto quest'anno in epoca di Covid? Sì, la nostra selezione è nata prima del Covid e abbiamo vinto la qualificazione a Coverciano, quattro ragazzi, io sono il capitano, Rosario Accurso, Alfonso Mereu e Carmine Liuzzi. Sparsi abbiamo sul territorio italiano o vicini? Tre napoletani e un sardo. Quindi diciamo un po' poco sparsi, però non ci conoscevamo prima. La nazionale si è formata appunto a Coverciano a fine gennaio, e da fine gennaio abbiamo iniziato la preparazione per questo evento organizzato da UEFA ufficiale. Quindi abbiamo iniziato la nostra preparazione tutta online, ci siamo conosciuti online, abbiamo cominciato a fare gruppo e questo gruppo è diventato una famiglia, nonostante non ci siamo mai visti fino adesso, ora non vediamo l'ora di festeggiare insieme. E giocando e allenandoci tutti i giorni ci siamo preparati per questo grande evento. Prima della fase di qualificazione. E come si svolge? Cioè... abbiamo come fatto come l'europeo vero, proprio come l'europeo vero. Allora, ma giocate in quattro contemporaneamente oppure ognuno gioca la propria partita? No, ognuno gioca la sua partita, ogni partita si gioca al meglio delle tre o al meglio delle cinque se giocata nell'europeo, quindi a rotazione si gioca in base all'avversario, un po' scegliendo in base al proprio stile di gioco, un po' in base all'avversario. e soprattutto la finalissima l'abbiamo giocata tutti e quattro, è ancora più segno di grande orgoglio e grande gruppo, grande passione. Abbiamo messo tutto il nostro impegno. Ma tutti e quattro possibile. Non in contemporanea? No, una partita a testa, perché si giocava meglio delle cinque partite, e abbiamo vinto tre partite, certo, noi e una la Serbia. Quindi un po' come la finale l'abbiamo giocata contro la Serbia, quindi sì, finalissima contro la Serbia, squadra fortissima, molto fra i favoriti del torneo. Ho letto che ha segnato anche Insigne, giusto? Sì, Insigne ha regalato la gioia finale, l'ultima partita al 92esimo, per stato di parità ci serviva un gol per vincere il torneo e con Carmine Liuzzi ha fatto una magia, doppio tocco, tiro a giro alla Insigne, diciamo, e gol. Quindi quasi un finale magico. Va bene, allora dai. Ma Cale, dove si vedono queste partite? Dove si vedono? Si vedono sulla piattaforma Twitch della federazione, e poi c'è stata anche una trasmissione su Sky On Demand e sul nostro partner Team Vision, che ha trasmesso tutte le dirette. Ah, quindi ormai siete degli eroi, dai, anche voi, contratti sì, milionari, no? No, milionari no, però è stato bellissimo accogliere il calore del pubblico, tantissime persone che non conoscevamo ci hanno scritto, hanno tante persone anche grandi di età incollate alla televisione, ci sono arrivate immagini, foto, riprese di persone grandi di età a tifare Italia. Ed è stato un grande orgoglio per noi trasmettere una grande passione e rappresentare l'Italia, le persone sono sentite rappresentate da noi, ed è stato un grande orgoglio. Dai, allora tanti complimenti ancora e saluti grazie a tutti mille. Grazie Nicola Lillo, Nicaldan, grazie Italia. Forza Italia, bravi campioni d'Europa. E Graziella ha chiamato dalla provincia di Firenze invece perché lei vuole essere campione di quiz. Buongiorno. Buongiorno, vorrei audiamoci. Ma sì, dai, perché no? Vediamo un po' che cosa ci propone adesso il nostro Andrea Piana, che è l'ideatore di questi quiz. Allora, da Helsinki in Finlandia arriva un'idea per evitare che, facendo la spesa, i clienti possano infettarsi e portare il virus nelle proprie abitazioni. Di che cosa si tratta? Risposta numero 1. Un sanificatore automatico spruzzerà candeggina su tutti i clienti che entreranno e usciranno dai supermercati. Risposta numero 2. Una speciale maniglia che permetterà di aprire frigoriferi ed altri dispositivi senza usare le mani. Risposta numero 3. Tutti i commessi saranno dichiaratamente infetti. Così i clienti spaventati si ricorderanno di disinfettare i prodotti una volta tornati a casa. Penso che la numero 3 no, che è la numero 2. La numero 2, quindi la maniglia. La maniglia, sì, vediamo. Brava Graziella. Brava. Bravi, complimenti. Inventata la maniglia anticontagio. Ne siamo molto contenti, complimenti, si porta a casa un libro. E complimenti anche a chi ha lavorato in redazione, Danilo Di Trani, Andrea Piana, Edoardo Lavezzari. Ci ritroviamo domani, Carlo, giusto? Sì, signori, un grande abbraccio da Carlo Gabardini. Ci sentiamo domani alle 8:30. E da Laura Bettini, GR24.